Ave Maria di nuovo a tutti, carissimi ascoltatori, e ben ritrovati. Il nostro ciclo di catechesi, con l'aiuto del Signore, diciamo che sta volgendo verso la quarta ed ultima parte, quindi diciamo che volge al termine. Diciamo nell'ultima dimensione della figura di San Giuseppe che riguarda il culto a San Giuseppe. E vedremo probabilmente, sì, ci vorrà sicuramente almeno questa ed un'altra puntata, presumibilmente, anzitutto alcuni santuari dedicati a San Giuseppe e poi le principali forme di preghiera di tipo devozionale nei confronti di San Giuseppe. Non so quanto spazio dedicare a queste dimensioni perché trovandoci su Radio San Giuseppe presumo che molti degli ascoltatori siano ampiamente istruiti, ecco, sulle preghiere e le devozioni in onore di San Giuseppe. Però i romani dicevano che ripetita iuvant, sperando oppure pregando magari che queste povere parole possano giungere anche a chi non è un assiduo frequentatore della nostra web radio, magari potrebbero aiutare qualcuno a conoscere questi importantissimi strumenti devozionali, anche perché, come abbiamo visto, San Giuseppe, quando bussa alla porta di Dio, è quasi, ecco, senza voler offendere la sua sposa, ma è quasi come la Madonna, nel senso che se Gesù non rifiuta nulla alla sua mamma, appunto perché è la sua mamma. E abbiamo imparato che non rifiuta nulla neanche a San Giuseppe, in quanto il suo papà, sia putativo, ma padre vero, reale, degno di questo nome. Adesso non c'è bisogno di ripetere, di riprendere quanto abbiamo visto nelle lunghe puntate precedenti di questo ciclo di catechesi, no? Vi ricordo che abbiamo concluso, ormai prima delle vacanze di Natale, la sezione dedicata a ciò che i santi hanno scritto su San Giuseppe, quindi all'esperienza fondamentalmente che alcuni santi poi canonizzati hanno fatto circa l'importanza di un'autentica devozione a San Giuseppe e anche le testimonianze delle tante grazie ricevute da questi giganti della spiritualità. Apriamo quindi quest'ultimo capitolo dedicato anzitutto ad alcuni santuari di San Giuseppe. Ecco, voi chiaramente mi perdonerete se adesso questa piccola sezione è prevalentemente descrittiva, quindi mi limiterò fondamentalmente a seguire il testo che ci illustra, ecco, anzitutto i principali santuari giuseppini, fondamentalmente, ma non solo in Europa. Vedremo che il primo si trova al di là dei confini europei. Allora, il santuario più famoso e importante dedicato a San Giuseppe è quello fondato dal beato André a Mont Royal, una collina di Montreal. Vi dico subito che anch'io ero completamente all'oscuro di tutte queste cose, quindi presumibilmente non molti degli ascoltatori le sanno. Questa storia del santuario a Montreal, ecco, non l'ho proprio mai sentita, quindi confesso tranquillamente e candidamente la mia ignoranza. Allora, là il beato costruì un piccolo oratorio che col tempo è diventato un santuario enorme, terminato nel 1966. Voi pensate che è l'edificio sacro che ha la cupola più grande della Chiesa Cattolica, seconda solo a quella di San Pietro di Roma. Pensate un po'. Può contenere 3.000 persone sedute e 10.000 in piedi. Annualmente lo visitano circa 3 milioni di fedeli. Sono tanti 3 milioni di fedeli, cioè non stai ai livelli di Pietrelcina o di Lourdes o di Guadalupe, ma 3 milioni di fedeli l'anno sono tanti, sono, eh? E Dio continua ad operare meraviglie per intercessione di San Giuseppe, come faceva quando il beato André era in vita. Quindi, informazione carissimi ascoltatori, che è abbastanza stupefacente e che al pari di voi anche il sottoscritto, come già vi ho accennato, la ignorava totalmente. Un altro famoso santuario è quello di Kalisz, spero di pronunciarlo bene, in Polonia. È una chiesa che venne dedicata alla Vergine nel mistero dell'Assunzione, però da più di 3 secoli si chiama Santuario Collegiata di San Giuseppe. A causa di un quadro, scusate, della Sacra Famiglia, denominato Immagine Miracolosa di San Giuseppe, per i miracoli ottenuti grazie all'intercessione di questo santo. Il 31 maggio 1873, qui sul testo c'è un errore, dice Papa Pio VI, ma nel 1873 tutti sappiamo che il Papa era Pio IX, non Pio VI. Quindi Papa Pio IX permise di coronare questa immagine miracolosa collocando una corona sul capo dei 3 membri della Sacra Famiglia. Addirittura durante la prima sessione del Concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII inviò il suo anello papale perché venisse posto sulla mano di San Giuseppe, e questo avvenne il 13 gennaio 1963. Altro santuario: a Barcellona esiste il santuario di San Giuseppe della Montagna, che dal 1895 irradia l'amore del nostro santo su tutta la Spagna e sul mondo intero. Lo fondò la serva di Dio, Madre Petra di San Giuseppe. Ai piedi della bella immagine del santo si vedono migliaia di lettere private arrivate da tutto il mondo. Sono messaggere di gratitudine, di gravi problemi d'urgente soluzione, di dolci speranze riposte nel Padre che tanto concede. Un altro tempio famoso, ancora a Barcellona, è quello della Sagrada Famiglia. La chiesa si chiamava all'inizio l'Iglesia de Sant Josef ed è famosa in tutto il mondo per la sua architettura senza uguali, opera dell'architetto Antonio Gaudí. Anche se non è terminata, essa irradia già l'amore dei 3 membri della Sacra Famiglia. In Francia, un santuario molto noto è quello del Monte Bessillon, dove ebbe luogo l'apparizione di San Giuseppe al pastore Gaspar Ricard nel 1660. Attualmente il bel santuario dedicato al santo è abitato dai monaci benedettini cacciati dall'Algeria dopo la guerra d'indipendenza di quel paese. Ecco, il nostro autore conclude qui, diciamo, la rassegna dei principali santuari giuseppini e conclude affermando: certamente vi sono molte chiese e santuari dedicati a San Giuseppe nel mondo e non abbiamo spazio per citarli tutti. È importante però sapere che l'amore a San Giuseppe sta aumentando nel mondo sempre di più e che nascono nuove congregazioni religiose fondate sotto la sua protezione e patrocinio. Che l'amore a San Giuseppe ci spinga ad amare come lui sempre di più Gesù e Maria. Giuseppe, ovviamente, non è la meta, ma il cammino verso Maria e Gesù. Penso che possiamo riprendere un'immagine un po' ardita che ho usato in qualche intervento precedente. La Sacra Famiglia di Nazareth è, capite bene il senso di questa espressione, una sorta di piccola trinità umanata. Cioè, noi sappiamo che le 3 persone divine sono perfettamente identiche, stessa natura, stessa sostanza, anche se distinte. E sappiamo anche che c'è la taxis trinitaria, no? Quindi il Padre è la prima persona, il Figlio è la seconda e lo Spirito Santo è la terza, no? E queste 3 persone, diciamo che si portano l'una all'altra. Lo Spirito Santo inviato a Pentecoste, dice San Paolo, ci fa riconoscere il Figlio come realmente Dio, quindi come Figlio di Dio, quindi il Verbo incarnato come Figlio di Dio, e il Figlio ci porta al Padre, perché il Figlio e sia nella Trinità che fuori della Trinità è tutto rivolto verso la gloria del Padre. Ecco, così abbiamo questa piccola Trinità, come dire, della Sacra Famiglia, dove chiaramente al primo posto sono tutti e 3 compartecipi della natura umana, anche se il primo in ordine di importanza, che Gesù è anche per natura Dio, però è anche per natura veramente uomo. Poi c'è la Madonna, che è veramente donna, ma completamente trasfigurata dalla grazia, e poi c'è San Giuseppe, che è veramente uomo, ma anche lui, pur avendo, essendo stato concepito con la colpa d'origine, abbiamo visto che è stato immediatamente santificato e confermato in grazia. Colgo l'occasione per dire, voi sapete che quando ci fu la disputa tra gli immacolatisti e i non immacolatisti, a proposito della Madonna, purtroppo appoggiandosi anche ad alcuni passaggi di San Tommaso d'Aquino, che è stato uno dei più grandi, il mio assolutamente punto di riferimento normativo teologico di tutti i tempi, grazie alla sua dottrina luminosa, è stato praticamente scritto il Concilio di Trento, cioè che tutti quanti i decreti dottrinali del Concilio di Trento sono quasi un copia e incolla della dottrina sacramentale di San Tommaso d'Aquino. Lui però, per una sua particolare, diciamo così, visione di Gesù, che appunto concepiva come Redentore universale, non aveva capito, come invece il suo quasi contemporaneo Duns Scoto riuscì a fare, che c'erano due modalità possibili di salvezza, no? Che operava Gesù, una successiva, come siamo salvati noi, e una preventiva, che è ciò che giustifica e fonda teologicamente l'Immacolata Concezione. Allora lui diceva che, per carità, la Madonna era la creatura in assoluto più santa, proprio assolutamente santa, quindi che però c'è stato soltanto un istante in cui è stata toccata dalla macchia d'origine e poi è stata immediatamente cancellata e immediatamente santificata. Ecco, quello che San Tommaso diceva della Madonna ci dovrebbe essere chiaro che invece è verissimo per San Giuseppe. Quindi San Giuseppe certamente non può competere con la pienezza di grazia della Madonna, perché anche essere, per questo è così importante l'Immacolata Concezione, perché anche un solo istante di, come dire, contrazione della macchia d'origine, come dire, determina proprio a livello ontologico uno scarto proprio assolutamente impressionante. È una cosa molto seria il peccato originale, carissimi ascoltatori. E quindi, non vorrei adesso mettere troppa carne al fuoco, abbiamo appena festeggiato la festa del battesimo di Gesù. Io mi permetto, ecco, di raccomandare a tutti gli ascoltatori di invertire questa sciaguratissima, ecco, per quanto mi riguarda, prassi, che è invalsa negli ultimi decenni, non so bene perché o per come, di battezzare i bambini, io scherzando dico, quando è ora che prendono moglie, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesi, e a me è sempre più frequente, mi capiterà anche prossimamente, di battezzare bambini di quasi un anno, o di 2 anni, o di 3 anni, o di 4 anni. Allora, scusate, no? Se Dio ha creato l'Immacolata Concezione in vista della nascita del Figlio di Dio, e se San Giuseppe, come abbiamo imparato, che, come dire, non aveva nessun contatto diretto con il Figlio di Dio, no? Perché San Giuseppe, come dire, è una figura esterna, è la Madonna che ha avuto un contatto diretto col Figlio di Dio, perché è stata, come dire, lo strumento attivo della sua incarnazione, gli ha dato la natura umana, no? Però per poter svolgere l'incarico altissimo di essere il custode e il vero sposo della Madonna e il padre putativo del Figlio di Dio, abbiamo sentito nelle catechesi precedenti, no? Immediatamente tolta la macchia d'origine, immediatamente confermato in grazia e riempito di grazia. Cioè immediatamente vuol dire che appena concepito, capite? Quindi c'è stata una presantificazione superiore a quella di San Giovanni Battista, no? Guardate che non è un caso che nel Vangelo di San Luca si dice che subito dopo l'Annunciazione l'angelo avverte Maria della concezione dell'anziana Elisabetta e la Madonna va subito a trovarla. Non perché, come dice qualche sciagurato, dice voglio andare a vedere se è incinta Santa Elisabetta, perché se è incinta Santa Elisabetta vuol dire che sono incinta pure io. Anche questo ci tocca sentire dire di questi tempi, e a volte anche in ambienti, come dire, ahimè, sedicenti cattolici. La Madonna è andata lì perché voleva semplicemente aiutare e servire l'anziana parente, no? Però appena incontra Santa Elisabetta, cosa dice il Vangelo? Il bambino gli sussulta nel grembo e tutti gli interpreti, a partire dai padri della Chiesa, dicono: San Giovanni Battista è stato presantificato nel grembo della madre, in quel momento gli è stata tolta la colpa d'origine. Quindi prima che nascesse, perché Elisabetta, ci dice il Vangelo, era incinta al sesto mese. Allora io dico, no, scusate. Io guardate, ci sono tante cose che non le riesco a capire. Qualcuno dice che sono intelligente, ma la mia intelligenza si sfracella dinanzi a queste cose. Allora io dico, faccio un ragionamento semplicissimo. La Madonna Immacolata Concezione, quindi non è stata manco sfiorata dalla colpa d'origine. San Giuseppe, padre putativo di Gesù, è tolta la colpa d'origine e presantificato nel primo istante. Quindi quello che i non immacolatisti pensavano della Madonna, guardate che se uno legge San Tommaso d'Aquino, tolto il fatto che diceva che soltanto nel primo istante c'era la colpa d'origine, comunque riconosceva la Madonna una straboccanza, perdonatemi il termine che non esiste, di grazia straordinaria. D'accordo? Quindi questa cosa abbiamo imparato che si può trasferire a San Giuseppe. Ed dipende dal fatto che c'è stato un intervento istantaneo della grazia per togliere subito la colpa d'origine e riempirlo di grazia. San Giovanni Battista, precursore di Gesù, presantificato nel grembo della madre a 6 mesi, ci si è smossa la Madonna da Nazareth con il figlio di Dio in grembo, e noi battezziamo i figli un anno dopo che nascono. Io dico, ma dopo che... Ci sono, cioè, se uno prende l'immortale catechismo di San Pio X, che per quanto mi riguarda immortale era e immortale rimane, perché non è stato mai abrogato, gli sono stati affiancati altri catechismi. Adesso non voglio aprire questa parentesi, che da un punto di vista pastorale tutto questo grande successo, almeno per quanto mi riguarda, io sono parroco, non credo che l'abbiano avuto, chiusa parentesi. Nel catechismo di San Pio X si legge: il sacramento del battesimo va amministrato il prima possibile, nei primissimi giorni di vita, non oltre il decimo giorno, cioè 10 giorni, già sono troppi. D'accordo? Quasi tutti sapranno, io l'ho detto da tante volte, lo ripeto perché magari qui, come dire, il bacino di ascoltatori è differente. Queste cose sono raccontate dai figli spirituali, quindi sono fatti storici. Padre Pio da Pietrelcina nacque il 25 agosto del 1887, ma nacque nel tardo pomeriggio, verso le 6, le 6:30, adesso io non mi ricordo bene. Allora, quando ancora c'avevano un pochino di fede e non le capocce bacate, perdonatemi, senza offesa per nessuno, che ci abbiamo oggi, sapete come succedeva? La donna partoriva dentro casa, tra l'altro, senza tutti questi impicci, le ostetriche, le cose, vabbè, comunque, sono cose buone, passi pure. Uscito il bambino dal grembo, gli facevano il bagnetto, quindi tempo che passasse mezz'ora, tre quarti d'ora, tagliavano il cordone ombelicale, ripulivano la placenta, lo portavano alla mamma, glielo facevano vedere, dopodiché lo prendeva il padre e con un padrino o con una madrina immediatamente andava in chiesa e lo faceva battezzare. Potevano passare 2 ore, massimo 3, era già battezzato il bambino. Allora, siccome Padre Pio era nato tardi, cioè nel tardo pomeriggio, a quei tempi i preti beati a loro non stavano fino alle 21:35 in piedi a fare catechesi su Radio San Giuseppe, perché non ci stavano le radio, quindi c'era un'altra forma di vita, e quindi i preti andavano a letto molto presto, non c'era neanche la messa vespertina allora, era proibito celebrare la messa di sera. Quindi però la messa la celebravano all'alba la mattina, c'era un mondo agricolo, quindi c'era un modo di vita completamente differente. Quindi alle 8 i curati stavano a letto, stavano, capite? Quindi quando sono andati in chiesa, la parrocchia era chiusa e sono dovuti rassegnare e andarla a battezzare all'alba del giorno dopo. Quindi saranno passate circa 12 ore. Quando Padre Pio raccontava questo episodio, io l'ho sentito dalle labbra di figli spirituali suoi, tuttora viventi, che lo raccontano, dovendo raccontare che, audite, audite, era stato battezzato addirittura 12 ore dopo la nascita, scoppiava in lacrime, si metteva a piangere come un bambino, lacrimava, singhiozzava, dicendo: mi hanno fatto rimanere per 12 ore schiavo di Satana. Mia madre, perdonatemi l'esempio personale, che non era Santa Rita d'Acascia, mia madre si trova nel regno della verità, lungi da me offenderne in qualche modo la memoria. Mia madre era una brava donna, una buona donna, per farvi capire, non andava a messa tutti i giorni, mia madre. Non c'è mai andata. Le domeniche, sempre. Aveva, diciamo, ricevuto un'educazione solidamente cristiana, tradizionale, da cui non si era mai discosta, quindi non ho discostato una moralità ferrea, anche troppo, ma non era tutto sto granché. Però mia nonna gli aveva insegnato, perché gliel'aveva insegnato sua madre, mia nonna, quindi la mia bisnonna, che non si portano fuori dall'ospedale, perdonatemi l'espressione, figuriamoci oggi, chiamano subito, non lo so, la magistratura, il telefono azzurro, non si portano gli animaletti fuori dall'ospedale. Quindi prima si battezza il bambino e poi si esce dall'ospedale. E io sono stato battezzato a 5 giorni, senza preoccupazioni, la festa, non la festa, il ricevimento, viene mia suocera, non viene mia suocera. Al battesimo non c'era nessuno, c'erano mio padre, mia madre, mio zio e mia zia, mio fratello e mia sorella che sono più grandi di me, e basta. Il rinfresco è stato fatto un anno dopo, quando io ho compiuto un anno. Vi ripeto, mia madre non era, ripeto, come dire, un'anima così devota, così attiva e attenta. No, erano semplicemente delle cose che venivano insegnate. Io so per certo di alcuni ospedali dove, ahimè, è stato addirittura proibito amministrare il sacramento del battesimo sulla base della ragione, senza dubbio conveniente, del fatto che il luogo proprio della celebrazione di un battesimo era parrocchia. Però, addirittura, questo mi può anche andare bene, no? Però addirittura a proibirci la celebrazione del battesimo entro un ospedale mi sembra un po' troppo, no? Perché se io, mamma di famiglia, ho il desiderio di battezzare mio figlio a un giorno dalla nascita, che è un desiderio sacrosantissimo, perché mi deve essere impedito questo? Allora, qui tocca, ecco, quindi parlando di questa piccola trinità umana al termine di questo, ecco, quindi c'è San Giuseppe che ci porta a Maria. E Maria che ci porta a Gesù, così come lo Spirito Santo ci porta al Figlio e il Figlio ci porta al Padre. Ecco, quindi ora San Giuseppe non sta qui dentro a titolo, come dire, giustapposto, sta qui dentro a ogni titolo. Però ricordiamo sempre che la grandezza di San Giuseppe, oltre alla sua straordinaria virtù, è stata possibile per la sua immediata santificazione. E potremmo anche dire che è stato così grandemente virtuoso perché la colpa d'origine in lui non ha potuto, come dire, germogliare quasi per niente, perché è stata tolta subito, colmandolo di grazie. Allora, vedete cosa significa riflettere anche su quest'uomo? Vogliamo smetterla per favore di portare i nostri figli al fonte battesimale quando ora che piano moglie o marito, per cortesia? Vogliamo andare a parlare con il parroco e prendere appuntamento prima che nasca il figlio? I miei fedeli lo sanno, io fuori della porta canonica ci ho messo un cartello. Perché? Perché con l'attuale situazione, cioè se tu devi battezzare un figlio a 6 mesi, te lo battezzi questa domenica o la prossima, sono passati 6 mesi, d'accordo? Quindi per esigenze di ordine ci sono delle date fisse per i battesimi. Ma questo non perché i miei fedeli sanno che se tu vuoi battezzare tuo figlio quando esci dall'ospedale, mi fai una telefonata il giorno prima e te lo battezzo istantaneamente. Magari fosse. Io posso dire che l'anno scorso qui qualcosa si è smosso, perché dagli oggi, dagli domani e dagli dopodomani, sono anni che dico queste cose. C'è qualcuno che mi ha portato a battezzare una bambina che c'era 3 giorni di vita, 3, qualcun altro a 6, qualcun altro a 8, qualcun altro a 10, ma erano anni che non si vedevano cose del genere. Non sono cose da nulla, come quelli che, mutatis mutandis, perché non c'è soltanto il peccato originale, poi San Giuseppe è stato confermato in grazia, quindi i peccati nella vita non li ha fatti. Come noi, attenzione, potremmo non farli, eh? Ricordiamo sempre una cosa, e gentilissimi ascoltatori, che il Concilio di Trento afferma che la giustificazione che Gesù ha operato in noi non è acqua paola, noi siamo realmente giustificati. Certo che rimangono sempre in noi le ferite della colpa d'origine e noi siamo sempre tentati verso il basso, ma il peccato mortale, uno che è stato battezzato e cresimato e vive in grazia di Dio, può non commetterlo mai. Ripeto, può non commetterlo mai. Compresi i peccati impuri, che sono quelli verso cui siamo fortemente tentati dalla concupiscenza, ma dinanzi a cui possiamo dire di no. Perché io conosco gente, gentilissimi ascoltatori, giovani, che non hanno commesso mai un peccato impuro. Oggi, giovani di oggi, vissuti in questo tempo e con tutte le tentazioni che c'hanno i giovani di oggi. Non sono favole questi qui. Sono fatti perfettamente reali. D'accordo? Ora, se disgraziatamente commetti un peccato mortale, qual è l'unica cosa che devi fare? Ti devi andare a confessare subito. Perché se tu lasci la tua anima così, col peccato mortale si perde la grazia santificante. Sapete cosa vuol dire che si perde la grazia santificante? Che la tua casa è vuota. Cosa dice il Vangelo? Quando la nostra casa è vuota di Dio, dentro c'entra subito qualcun altro. Non è che si diventa posseduti, c'hanno tutti paura. Io sento la gente, oddio, c'ho pure del demonio, le possessioni, gli strilli, gli urli. Dico, ma quale possessione? Le possessioni rientrano nell'azione straordinaria del demonio. Sono appariscenti, ma relativamente rare e poco pericolose. Io ho visto tante situazioni di questo genere. Tu c'hai la possessione? Benissimo, ti rimetti in grazia di Dio. Vai dall'esorcista. Quanto ci puoi mettere? Un esorcismo? Tre esorcismi? 10 esorcismi? Un anno di esorcismi? Il demonio se ne va. Se ne va. Capite? Perché Gesù Cristo è più forte di lui. Quindi, con l'esorcismo il problema si risolve. Ma c'è una forma di possessione, tra virgolette, peggiore, che non è appariscente. Non è visibile, non succedono scene madri e tu la puoi avere dentro senza che neanche te ne accorgi. Sai qual è? Aver perso la grazia di Dio e aver fatto un peccato mortale. La tua anima, non il tuo corpo, è tra virgolette, ma neanche troppo, posseduta dal demonio. Quindi che aspetti andate a confessare? Ora, il fatto che oggi i battesimi vengono fatti quando è ora che si pia moglie o marito, e il fatto che le confessioni siano fatte poco e male, ve lo dico da prete, è rarissimo sentire una confessione fatta come Dio comanda, rarissimo. Sono dei segni brutti dei tempi, come diceva il beato Bartolo Longo, morta fede ed empietà trionfante, morta fede ed empietà trionfante. Cioè noi a queste cose non ci crediamo più. Io dico sempre, torniamo al discorso un attimo del battesimo. L'ho detto ieri ai miei fedeli, l'ho detto pure qualche domenica fa. Dico, scusate un attimo, quando un ragazzino esce dopo il parto, no? È sporco, poverino, è insanguinato, c'ha tutti quanti i residui della placenta. Cioè, io non ho mai visto come nasce un bambino, perché non sono donna e non sono manco marito, quindi non ho mai assistito a un parto. Ma a queste cose ci arrivo, no? A parte che ci stanno i documentari, le cose, ma uno poi ci arriva, no? Allora, dico, scusate, ma sto ragazzino quando esce dalla pancia della madre, aspettate 7 mesi per fargli il bagnetto? Oppure la prima cosa che fa l'ostetica lo pia e gli fa il bagnetto? Dico, scusate, no? Ma secondo te l'anima macchiata dalla colpa d'origine è più sporca o meno sporca di quanto lo sia il corpo che esce dal grembo della madre? Domanda. Certamente fatta da un prete durante una predica si capisce subito che è una domanda retorica, perché la risposta è più sporca l'anima. Sì, d'accordo. Ma questa è una domanda retorica a cui si risponde più sporca perché è ovvio che il prete intenda questo, perché tu ci credi veramente che è così. E se ci credi veramente che è così, sei folle se lasci tuo figlio per 6-7 mesi senza il battesimo. O no? Ah, Tu ci credi che un peccato mortale come Santa Romana Chiesa insegna ti fa perdere la grazia santificante? Non c'è la grazia santificante nel tuo cuore, non c'è più. E l'unico mezzo per recuperarlo è la confessione sacramentale fatta bene, dove tu vai a dire: ho commesso questo peccato, dandogli un nome, e ne sono pentito. Bastano queste due cose, dare il nome al peccato ed esserne pentiti. Appena il sacerdote alza il braccio e dice: ti assolvo i tuoi peccati, la grazia santificante ritorna in te, ma prima non c'è. Allora, noi abbiamo idea di quanti danni e quanti mali faccia il demonio, se uno lo lascia fare, ne fa tanti. Allora, certamente non dobbiamo essere terrorizzati dal demonio, però dobbiamo sempre ricordare che il demonio viene bloccato nella sua azione non da noi, ma dalla grazia di Gesù Cristo che lo ha vinto. Ora, se io questa grazia di Gesù Cristo non la vado a prendere, sapete che succede? Che il demonio fa quello che gli pare, facendo tanto male dentro di noi e intorno a noi, senza che nessuno se ne accorge e senza che nessuno lo contrasta. Quindi altro che San Giuseppe. Allora io spero che queste povere, diciamo così, considerazioni ci aiutino, ecco, perché la grandezza di quest'uomo, che dobbiamo riconoscere, ma come la grandezza di ogni, dipende dalla grazia di Dio. Non siamo noi che siamo grandi. San Giuseppe è grande perché è stato ricolmato di grazia. C'è indubbiamente un mistero dietro. Perché quell'anima, l'anima di San Giuseppe, è stata eletta, è un'anima eletta, è stata scelta. C'è indubbiamente, come dire, la dimensione meritoria, perché San Giuseppe ha sempre cooperato con la grazia, ne ha assecondato gli impulsi, ha obbedito alla voce di Dio. Però la grazia è sempre preveniente. Ora, certamente lui è stato graziato perché nel grembo della madre, cioè, è stata un'operazione divina straordinaria, no? Ecco. Noi però abbiamo i mezzi ordinari, stiamo sempre andando in cerca, oggi c'è questa pazzia diffusa in non pochi fedeli che devono andare a cercare il miracolo Y, l'apparizione Y. State attenti che io sono devotissimo della Madonna e ci credo alle apparizioni, eh? Ecco. E ritengo attendibili a titolo personale. Ovviamente, fermo restando il rispetto che ho per il magistero, anche apparizioni che non siano, che non sono state ufficialmente riconosciute dalla Chiesa, pur non essendo condannate. Quindi non sono certamente nella categoria di quelli che negano tutto, dei miscredenti, o che appena sentono parlare di soprannaturale cominciano a pensare che sono tutte quante cretinate, che gente malata di mente, assolutamente. Però riconosco che c'è una modalità di approccio a questa realtà non sana, non corretta, cioè di quelli che appena sentono di il miracolo, questo e quell'altro, prendono e partono, ma non, come dire, per convertirsi, perché il miracolo è sempre un segno che Dio dà per aiutare la persona a convertirsi, no, perché devono vedere il sensazionale. Devono vedere il sensazionale. Io tante volte scherzando, ho sempre detto, dico, mi è capitato più di qualche volta ad andare a Medjugorje, spesso perché richiesto di accompagnare i pellegrinaggi, apparizioni di Medjugorje che personalmente, fermo restando il giudizio della Chiesa che attendo e a cui fin da ora mi sottometto, ritengo attendibili nella sostanza e nell'origine, anche se, guardando con attenzione, nell'evoluzione del tempo ci sono dei punti oscuri che non toccano, secondo me, la sostanza della bontà del fenomeno globale. Ora però, chi ci va a Medjugorje in pellegrinaggio è ovvio che crede all'apparizione, no? Che è convinto che lì appare la Madonna, ha parlato la Madonna, parla la Madonna. Allora io sentivo gente quando accompagnavo queste cose, è la decima volta che vengo a Medjugorje, la quindicesima volta, la dodicesima volta. Allora, poi ogni tanto parlando, una volta che avevo capito il messaggio di Medjugorje, mi accorgevo che questa gente qui non era gente che andava a messa tutti i giorni, non era gente che si confessava tanto spesso, non era gente che faceva il digiuno, perché le richieste della Madonna di Medjugorje sono queste, quindi tu sei libero di crederci o di non crederci, d'accordo? Quindi tranquillissimo. Però se tu ci vado io, allora, vedete le cose che io non capisco, che sono stupido, e che vi prego di aiutare la mia corta intelligenza, dico, scusa un attimo, no? Tu vai a Medjugorje, quindi vuol dire che tu credi che a Medjugorje appare la Madonna, e parla la Madonna. Scusa, la Madonna a Medjugorje ha detto, digiuno 2 volte a settimana, pane e acqua, 24 ore, messa tutti i giorni, messa e comunione quotidiana. Lo dice la Madonna, rosario intero tutti i giorni, tutti e quattro, adesso sono diventati 4 i misteri, tutti i giorni. Confessione almeno mensile, ma in alcuni messaggi, se non si legge tutti, dice se vuoi fare un cammino impegnato di vita interiore, la confessione massimo ogni 8 giorni, come diceva Padre Pio. E poi almeno un quarto d'ora di meditazione sulla Bibbia o su quello che te pare tutti i giorni. Questi sono i 5 punti fondamentali. Allora, è la 15ª volta che viene a Medjugorje. Ma vai a messa tutti i giorni? No. Ogni quanto ti confessi? Beh, ogni tanto. Lo fai il digiuno? No, ma il digiuno fai il mal di testa, eccetera, eccetera. Dico, il rosario, una corona tutti i giorni. Ma, sì, vabbè, per carità, una corona va bene, ma non è quello che chiede la Madonna a Medjugorje. Allora, scusate, a che serve andare a 15 pellegrinaggi a Medjugorje? A che serve? Perché incontri il veggente, perché stasera appare la Madonna, le croci blu, la cesta Ivan, tutti quanti a vedere, tanto vai a vedere l'apparizione, non si vede niente, non si vede. Gentilissimi ascoltatori, c'è il numero di telefono, poi ce lo darà Antonio, se qualcuno illumina la mia corta intelligenza, mi aiuti, perché io queste cose non le capisco. Anche la devozione a San Giuseppe, diceva il buon Padre Pio, la vera devozione consiste sempre nell'imitazione. Allora, la straordinaria santità di quest'uomo, ripetiamo, dipende dalla grazia ricevuta, straordinaria da Dio, dalla grazia custodita. Quindi, se vuoi imitare San Giuseppe, te vengono i figli, li porti a battezzare appena nati, subito. Perché non è la stessa cosa che quel ragazzino cominci a vivere in grazia, anche se non capisce niente. Cioè, col battesimo viene tolta la macchia d'origine e scende la grazia santificante. Cioè, ragazzi, prima che un bambino è battezzato, le 3 persone della Santissima Trinità, attraverso il mistero dell'inabitazione che avviene con l'infusione della grazia dentro il cuore dell'anima di un bambino, non ci stanno. Questa è la fede cattolica. Anzi, c'è sta il marchio del demonio, perché nasciamo marchiati tutti quanti. Sono dogmi di fede questi qua. Io mi rendo perfettamente conto che molti cattolici un po' di etichetta o di facciata, oddio, un bambino col marchio del demonio. Sì, un bambino col marchio del demonio, sì. È così. A noi ci danno fastidio queste cose, ma è così. Che ci vuole a toglierglielo? Niente, d'accordo, ci vuole che lo porti subito in chiesa, non ci vuole niente, non ci vuole. Ma lo devi fare. Sei devoto a San Giuseppe, i peccati devono stare alla larga da te, perché San Giuseppe ha custodito una vita di grazia in maniera indefettibile. Sei devoto a San Giuseppe, San Giuseppe è stato un uomo castissimo, e per certi aspetti la castità di San Giuseppe, capite bene, è per certi aspetti, considerando la diversa condizione soggettiva, ancora più grande di quella della Madonna, per 2 motivi. Prima, perché Giuseppe è un uomo, e tutti quanti sappiamo che la concupiscenza, questo ce lo dice la psicologia, è più violenta e più attiva nell'uomo che non nella donna. Uno. Punto secondo, perché San Giuseppe, pur essendo stato immediatamente presantificato, la macchia d'origine l'aveva contratta. Quindi, mentre la Madonna la concupiscenza non l'aveva, San Giuseppe la concupiscenza l'aveva. La pienezza di grazia ricevuta ne avrà quasi completamente smorzato la violenza? Io questo non ve lo so dire, e non lo so. Indubbiamente San Giuseppe è stato castissimo. Quindi un devoto di San... Ma se tu usi i sacramenti, io non sono nato prete, io prima di fare il prete ho avuto la fidanzata. Allora, quando abbiamo cominciato a vivere la fede non all'acqua di rose, ma sul serio, la castità è stata una castità assoluta, d'accordo? Assoluta. Come si deve vivere nel tempo del fidanzamento? Il fidanzamento è castità assoluta, eh? Non è castità a metà, eh? Non è che non si possono avere rapporti prematrimoniali in senso stretto e il resto sì. No, no. La castità del fidanzamento è assoluta. Ecco. Se tu vivi in grazia di Dio, quella cosa la vivi. Ti costa, ci vuole un sacrificio e comunque una rinuncia, ma è possibile farlo. Non è impossibile. Quindi, la vera devozione, diceva il buon Padre Pio, consiste sempre nell'imitazione. Stiamo sempre attenti a questo qui. Anche essere devoti della Madonna, non basta che dico 400.000 rosari al giorno. Devo conoscere, su questo è bravissimo San Luigi Monforte, le virtù di Maria. Io penso che, adesso lo propongo subito a Antonio, e sarebbe a mio modestissimo avviso molto istruttivo fare un ciclo di catechesi sulle virtù di San Giuseppe. Andarle a ci stanno per esempio le litanie di San Giuseppe, lo vedremo la prossima volta, che sciorinano tutta quanto una serie di attributi grandi di San Giuseppe, e che quelli dobbiamo imitare, quelli là, eh? Li dobbiamo assolutamente imitare, tutti, e dobbiamo ben tenerli presenti, perché la grazia presente in San Giuseppe ha operato fecondissimamente in lui, dando luogo a questo albero frondoso e ubertoso di una caterva di virtù praticate tutte quante in grado eroico e perfetto da San Giuseppe. Tutte le devozioni che non portano all'imitazione, scrive San Luigi Monfort, sono devozioni false e sterili. La prossima volta vedremo tutte quante le preghiere che si devono fare, che si possono, è raccomandabilissimo farle a San Giuseppe. Ecco, però sempre dentro un contesto di devozione autentica, cioè io prego San Giuseppe per ricevere le grazie, ma sono devoto a San Giuseppe anche perché, colpito da questa sua immensa grandezza, accolgo da parte di Dio il suo esempio come esempio da imitare, come esempio possibile, proprio perché tra i tre, tra Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, cioè nessuno di noi può eguagliare Gesù, la Madonna è una donna come noi, ma la Madonna ha una marcia in più rispetto a noi, che è la preservazione della colpa d'origine. Per cui avete visto quel canto che dice vogliamo vivere come Maria l'irraggiungibile, qualcuno dice che è eretico, ma che non, è cattolicissimo, perché la Madonna è irraggiungibile nella sua dimensione, perché parte da un punto di partenza superiore rispetto al nostro. Io non sono stato concepito senza peccato originale, per cui io dentro di me sento tutte le passioni negative. San Giuseppe invece sì. Ecco perché forse è così, ecco perché il demonio ha tanta paura di San Giuseppe, perché il marchio del demonio San Giuseppe ce l'ha avuto pure lui, sì, perché non è stato concepito senza, gli è stato tolto immediatamente, ma ce l'ha avuto, ecco, e quindi su questo è ancora più vicino a noi, e quindi certamente anche noi non ci possiamo arrivare a San Giuseppe, perché noi non possiamo essere presantificati nel grembo della nostra madre. Però cari papà e cari mamme, ecco, santifichiamo i bambini appena nati e santifichiamoci noi imitando almeno San Giuseppe. Uno, la confessione frequente in ogni caso. Non faccio peccati gravi, mi confesso spesso lo stesso. Secondo, Dio non voglia, ho fatto un peccato grave, quello che raccomando sempre a tutti, mi vado a confessare immediatamente. Non lascio neanche, non vado neanche a letto la sera. Cioè, vado a una casa canoma, magari mi venissero a suonare alle 2 di notte a me per chiedere una confessione, ma alzerei subito. Il problema è che ti vengano a suonare a orari balordi per chiedere il certificato del battesimo, magari ti venissero a chiedere confessioni a orari balordi, io sarei ben felice di farci le nottate intere in confessionale, capite? Ecco. Bene, la prossima volta vedremo con l'aiuto del Signore quali sono le principali preghiere, ecco, con cui possiamo rendere culto a San Giuseppe e con cui possiamo da lui ottenere tante grazie.